es una gran. Venderesti tutto solo per lei. E la stringi forte al cuore e non ti fidi di nessuno, neanche dell'amico più caro che hai. Quando ami una donna, ti lei sposi il bianco e il nero, sali fino al cielo per un suo sì. Muori mille dell'amico più caro che ha.